Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, da cittadino di una regione dove non si è votato, ho osservato la campagna elettorale con un certo distacco e forse anche con un po' di disattenzione, dato che non mi sono accorto di avere mai sentito alcun dibattito sulle varie questioni sostanziali che incombono sui cittadini. Per farla breve, mi pare che la campagna elettorale si sia giocata sulla questione di chi, tra le due parti, fosse più indegno di essere votato. Se portiamo il discorso su un piano nazionale, l'impressione che se ne trae è che ad ogni elezione politica una sola metà dei parlamentari abbia il compito di governare, dato che l'altra metà ha solo il compito di impedire ai primi di farlo. Il che mi fa pensare che solo metà dei parlamentari eletti, nel migliore dei casi, si occupi di ciò per cui viene pagato, cioè amministrare lo Stato. Dal punto di vista strettamente finanziario, considerando lo stipendio di tutti i parlamentari, non solo di chi sta al governo, credo sia uno spreco che non ci possiamo permettere. E tutto ciò nella pur rosea speranza che l'altra metà degli eletti, quelli che stanno al governo, lavorino davvero per governare, e non soltanto per difendere strenuamente quello stesso potere di governo che gli avversari cercano loro di espugnare. Nel quale caso, invece, il bilancio complessivo sarebbe banalmente a zero, dato che tutti, chi per attaccare, chi per difendere, sembrano davvero occupati a fare tutt'altro che ciò per cui sarebbero pagati, cioè governare. Cesare. Egregio dottor Fabi, ho sentito la lettera dell'ascoltatore 29enne che voleva astenersi dal voto, ma pensando a quell'anziano iracheno che aveva rischiato la vita pur di andare a votare, ha deciso di andare comunque a votare scegliendo il meno peggio. Anch'io, quando avevo 30 anni, mi turavo il naso, ascoltavo, sognavo e poi votavo. Da qualche tempo però ho riflettuto che il ceto politico, quello che conosciamo come casta, quello che si alimenta di se stesso, che si ricicla di sedia in sedia tanto per non perdere le priorità acquisite, che corrompe e si fa corrompere, beh, questo ceto politico considera il voto di noi cittadini come una sorta di legittimazione della propria esistenza e quindi continua imperterrito a fare seri danni. Forse non li fa a tutti gli italiani, forse non li fa ai dipendenti pubblici, ai presidenti di province e regioni, e comuni ed enti inutili, alle authority che dovrebbero vigilare su coloro che non vigilano, eccetera. Ma a molti italiani questo andazzo crea molti problemi, frustrazioni e perplessità. Le riforme di cui si riparla solo in vicinanza delle elezioni dovrebbero in qualche modo iniziare a sanare questo dislivello sociale, a combattere sprechi e corruttela, ad emarginare ed eliminare totalmente i fiumi di denaro pubblico che finiscono nelle tasche sbagliate. Ma mi chiedo, è possibile che coloro che sguazzano in questa situazione per loro privilegiata possano fare questo genere di riforme? Quando avevo 30 anni, sapevo che la politica aveva un costo, ma mentre loro mangiavano una bistecca al giorno, noi potevamo mangiarne sì e no due alla settimana. Però avevamo la possibilità di migliorare la nostra situazione e avevamo un futuro. Poi col tempo siamo arrivati solo a leccare l'osso, mentre gli altri di bistecche adesso ne mangiano 10. È un esempio banale, forse populista, ma ritengo che se votiamo ancora questa classe dirigente così com'è e non ne pretendiamo un'altra, legittimiamo le ingiustizie. Massimo. Non sono andato a votare. Pur interessandomi e appassionandomi di politica, ho scelto di non andarci. Nessun moto antipolitico o populista, ma una scelta meditata. Avendo seguito la campagna elettorale, quindi essendomi accorto della sagra dell'inutile andata in scena, ho deciso di non parteciparvi con il mio voto, scegliendo altre sagre che mi danno più soddisfazioni, almeno alimentari, come quella dei crostacei. Una campagna elettorale iniziata con il caos liste, proseguita con il caso Santoro, è la quintessenza dell'antipolitica, quindi dell'assenza di proposte politiche sulle quali il cittadino dovrebbe esprimere il proprio gradimento. Nella campagna elettorale appena conclusa, non ho sentito alcun candidato governatore spiegare come amministrerà la propria regione. Non ho ascoltato alcun piano di rientro del debito sanitario regionale, che incide paurosamente su tutte le regioni. Per giorni e giorni i mass media hanno occupato tutti gli spazi informativi per sviscerare tutti i lati oscuri del caso liste, senza peraltro chiedere alle forze politiche locali e nazionali come evitare in futuro un simile caos. Personalmente non chiedo un passo indietro della politica, ma chiedo che la politica si riappropri della propria funzione, cioè proporre soluzioni ai problemi del paese, che vengano poi attraverso le elezioni premiate o bocciate dagli elettori. Ma da 15 anni a questa parte, gradualmente e inesorabilmente, ciò non avviene più. Massimiliano. La libertà d'espressione è un bene prezioso. Difenderla prima ancora che un dovere è un diritto. In Italia c'è chi la possiede fuori dai media, da sempre. Da femminista sono in questa condizione e ho imparato a tenere care tutte le occasioni nelle quali vengono denunciati le censure e gli abusi proprietari. Ho seguito la trasmissione Rai per una notte, proprio riconoscendone il valore di denuncia, nella quale da censurato ha partecipato Daniele Luttazzi. Si tratta ora di capire se l'espressione della critica e del dissenso possa essere veicolo di legittimazione di un linguaggio inutilmente lesivo delle donne. Non è la prima volta che Luttazzi banalizza lo stupro. Non credo che questo non abbia fatto sentire a disagio le tantissime donne presenti alla trasmissione. Il talento in questi casi diventa un pretesto e al talento non si rende un buon servizio, confondendo con la protesta contro la censura un effetto comico cercato sul limite esistente tra la violenza sessuale e la compiacenza forzata, limite solo linguistico perché nella realtà le due cose coincidono. È la compiacenza di cui fa apologia Berlusconi. Non è la sola analogia tra Luttazzi e Berlusconi. Infatti, ammiccano tutti e due ad un pubblico solo maschile. Il fatto che ci siano donne che li compiacciono sorridendo o applaudendo non sposta l'asse della dignità femminile. Tutto questo tenendo fuori dal discorso gli ammiccamenti che occhieggiano alla prostituzione, confondendola con la tratta di ricatto sessuale. Ma questo è vizio talmente esteso che risulta incomprensibile da parte degli uomini una qualsiasi distinzione. La parte più amara viene dalla considerazione che con un linguaggio trasgressivo si ripropone la logica borghese della sottomissione sessuale femminile. Per questo l'iconoclasta Luttazzi, per la sua metafora, non ha scelto una sodomia fra gay. Il calcolo è sempre lo stesso. Pesa di più l'accusa di omofobia o quella di maschilismo? La risposta è nelle cose e anche nelle scelte giornalistiche. Stefania. Benché Benedetto XVI abbia espresso una durissima condanna dei casi di pedofilia di alcuni esponenti del clero, sia lui che la Chiesa Cattolica sono sotto attacco da parte di intellettuali della stampa internazionale, nazionale e persino da esponenti del mondo cristiano. Perché? Io credo che questa vicenda, per chi non ha il cuore chiuso dall'ideologia e dal pregiudizio, sia un esempio del cruento contrasto fra due logiche: la logica del mondo e la logica del Dio di Gesù Cristo. La Bibbia ci dice che il principe di questo mondo, il demonio, colui che divide, inganna, seduce e si oppone a Dio, fa la sua battaglia. La logica di Cristo, pur chiamando il peccato e il male con il loro nome, è quella della misericordia perché il peccatore si converte e viva. Cristo stesso ha avuto parole durissime per coloro che scandalizzano i piccoli, dicendo che sarebbe meglio per costoro che si mettessero una pietra al collo e si gettassero nel mare. Ma il mondo che governa i media non è altrettanto spietato per i gravi danni morali arrecati ai piccoli e alla società con gli spettacoli osceni, con tanta superficialità e l'inganno. La Chiesa, nella sua parte umana, è fatta di peccatori e sarebbe quindi ingenuo pensare che sia immune anche da colpe tanto gravi come la pedofilia, che purtroppo è diffusa anche in molte altre realtà. Quando penso però ai pulpiti da cui ci viene questa predica spietata, penso alla tremenda affermazione che è in uno dei salmi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. La spietatezza dei regimi ideologici che volevano costruire l'uomo nuovo, magari condannando l'oscurantismo e i veri o presunti errori della Chiesa, è lì a dimostrarci che l'uomo, lasciato a se stesso e al suo orgoglio, ha creato molti più danni e sofferenze di quelli causati dai cristiani. Coloro che si autodefiniscono nuovi moralizzatori, come lo furono gli illuminati giacobini della Rivoluzione francese o i comunisti, alla fine creano infinite sofferenze. Ecco perché ritengo strumentali e dettate da odio le denunce fatte al Papa. Claudio. Secondo me la politica, da qualsiasi parte la si guardi, è tutta uguale. Tutti parlano male dell'altra parte, demonizzando l'avversario, senza mai però proporre delle soluzioni ai mali di questo paese. Poco rispetto e poca educazione. In Italia c'è gente per bene che lavora e tira avanti meglio che può, e penso ne abbia piene le tasche di tutta questa falsità e ipocrisia anche nell'informazione. Di quale libertà di stampa e di quale informazione parliamo se l'informazione viene fatta a senso unico e in modo continuamente fazioso? Chi tutela noi cittadini telespettatori da questi individui che ci propinano continuamente programmi contro, se non il telecomando? Decimo. Scrivo a proposito del falò realizzato da Calderoli in una caserma dei Vigili del Fuoco per bruciare simbolicamente le leggi inutili che il suo ministero era riuscito a fare abrogare. Ho sentito l'altra sera il Vigile del Fuoco che si lamentava del servizio al quale alcuni di loro hanno dovuto partecipare, sottraendo così forze ad impegni più importanti. Giusto. Stesso discorso però si dovrebbe fare anche per una miriade di altre manifestazioni inutili, dove i Vigili del Fuoco sono presenti per sicurezza, tipo inaugurazioni ripetute di vari edifici pubblici. Aggiungiamo poi, per fare un altro esempio, le fanfare dei vari corpi. A che servono, in effetti? Non sono forze tolte ad impegni ben più importanti? Saranno sicuramente compiti di rappresentanza, per i quali questi sono retribuiti, come sarà stata, a mio avviso, anche quella manifestazione del rogo. Bruno. L'Italia non è la Grecia? È un ritornello che ci stanno ripetendo fino alla nausea. Vista dalla Francia, dove abito per metà dell'anno, la situazione italiana è molto più a rischio di quanto vorrebbero farci credere. Nonostante ciò, gli argomenti, anche se è un eufemismo definirli tali, della campagna elettorale sono i soliti: denigrazione dell'avversario, equilibri interni alle coalizioni, par condicio, eccetera. Nell'ipotesi non remota di passare la soglia di non ritorno, come si giustificheranno i nostri esimi politici? Diego. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.